Salve a tutti, io sono Jasmine, questo è Radio Big World e benvenuti alla nuova puntata di Curiosità Animate, dove vi parlo dei classici Disney. Il film di cui parliamo oggi è Robin Hood del 1973 ed è il 21esimo classico Disney. Basato sulla leggenda risalente al periodo sassone del famoso bandito Robin Hood, il film vede come protagonisti degli animali antropomorfi. Infatti Robin Hood è una volpe, come viene anche descritto nell'originale leggenda, metaforicamente come un dio volpe della foresta. E con il suo inseparabile amico Little John, vivono nella foresta di Sherwood, dove rubano ai ricchi per dare ai poveri. In questo panorama, il perfido e viziato principe Giovanni ipnotizza suo fratello, re Riccardo, e lo costringe a partire per le crociate, così Giovanni può prendere il trono. Robin Hood, con l'aiuto dei suoi amici e della sua amata Lady Miriam, nipote di Re Riccardo, decidono di smascherare i soprusi compiuti dal Re Fasullo d'Inghilterra, che alla fine del film verrà imprigionato da suo fratello stesso, che tornerà in Inghilterra. Al film venne assegnato un piccolo budget. Infatti negli anni 70 gli studios riscontrarono una certa crisi economica, che li costrinse a riutilizzare scene da precedenti classici Disney. Tra l'altro, la figura di Little John e Sir Beast, scagnozzo del principe Giovanni, rispettivamente un orso e un serpente, sono molto simili a Baloo e Ka del Libro della Giungla. Il film, tuttavia, benché queste difficoltà di produzione, ha ricevuto ottimi incassi e anche un'acclamazione da parte del pubblico positiva. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.